perigli della guerra, io so ben che esposto sono. E ti scudi. Che domani la patria terra sia congiunti, ahimè, abbandono. E ben sonanti. Ma so pur che fuor di questa altra strada a me non resta per poter del cor d'Adina sarà un giorno trionfare. E dopo un posto di pace tra le file e le bandiere oggi razzi amor si piace con le bispe di bandiere, con le bispe di bandiere. Ah, un giorno sempre lieto, sempre gaio, a di bello un centinaio di Costanza, non sa voglia, non si perde a sospirar, non si perde a sospirar. La vita può lasciare. Credi a me la verre, regna, regna, me la verre, regna, accompagna il militar. Vedi a me la verre, regna, accompagna il militar. Vedi a me la verre, regna, accompagna il militar. Vedi a me la verre, La vita passo a tal partito, tu non sai.